si è trattato proprio di attacchi, diciamo che sono state delle osservazioni dettate forse un po' da demagogia, forse un po' da scarsa conoscenza dei meccanismi che operano all'interno della nostra associazione. Il collega Lisei, il collega nel senso che è avvocato come me, sottolineava il fatto appunto che le persone non abbienti possono ottenere il patrocinio a spese dello Stato e che intravedeva potenziali rischi di concorrenza non corretta da parte degli avvocati che esercitano la loro attività gratuitamente. Ho fatto presente che la nostra attività è destinata, indirizzata esclusivamente alle persone senza dimora, molte delle quali sono anche prive di residenza, il che rende impossibile allo stato delle cose il ricorso al patrocinio a spese dello Stato, e che quando invece c'è la possibilità di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato siamo i primi a indirizzare le persone verso il competente ufficio del nostro Consiglio dell'Ordine ed evitiamo di assumere gli incarichi difensivi per queste persone, per evitare qualunque tipo di conflitto di interessi. Per il resto sono persone che non hanno un soldo per campare, quindi immaginiamoci per pagare un avvocato. Ben volentieri, se l'avvocato Lisei o qualunque altro collega è disponibile a partecipare alle nostre attività, noi lo accogliamo a braccia aperte. Il problema è che appunto lavoriamo per queste persone esclusivamente e gratuitamente. Ovvio che poi non è la nostra attività esclusiva, nel senso che ognuno di noi fa l'avvocato normalmente nel suo studio con i propri clienti che più o meno regolarmente pagano. Con questi clienti l'unica particolarità appunto è che non ci danno alcunché per le attività che noi svolgiamo. Per quanto riguarda la consigliera Cocconcelli, ha fatto una serie di valutazioni, lei si riferiva in particolare al discorso delle persone senza dimora a cui vengono elevate le contravvenzioni per mancanza del titolo di viaggio sui mezzi pubblici, per i quali noi abbiamo attivato una sorta di accordo a Bologna intento con Tiper per una sospensione di queste multe. Ho sottolineato di fronte alle obiezioni della consigliera Cocconcelli che lo facciamo non in maniera generalizzata ma esclusivamente per persone che hanno un percorso di sostegno da parte dei servizi sociali del comune e con una sorta di lettera di patronato da parte nostra, nella quale appunto facciamo presente che si tratta di persone che effettivamente vivono in strada, che effettivamente non hanno risorse per poter pagare questi titoli di viaggio e che hanno un percorso di appunto inserimento di sostegno da parte dei servizi sociali di Bologna. In questi casi, e solo in questi casi, vengono sospese le sanzioni, non cancellate. Il timore della consigliera Cocconcelli è abbastanza infondato. Ecco. A questo punto le faccio una domanda più generale che riguarda non tanto insomma le osservazioni di ieri, ma forse anche un clima culturale che si respira nel paese. La povertà sembra essere diventata una colpa. Sì, è così. Purtroppo è così, si cerca di allontanare la povertà dalle nostre città, ci sono anche provvedimenti di alcuni comuni che emettono ordinanze con le quali viene punita la povertà di fatto. Essere poveri non è una colpa, essere poveri è uno stato di fatto in cui peraltro ognuno di noi si può trovare da un giorno all'altro, perché le ragioni per le quali queste persone vivono in strada sono molteplici, ognuno di queste persone ha la sua storia, il suo vissuto, ha le sue problematiche, ma essere poveri non è una colpa. È già una vergogna, è già uno stigma sociale. Se in più dovessimo aggiungerci anche l'impossibilità di trovare tutela ai propri diritti fondamentali, davvero queste persone finirebbero con lo scomparire dal nostro orizzonte. È ciò che noi vogliamo che non accada. Ci diamo da fare nel nostro piccolo, con la nostra specificità di avvocati, per cercare di impedire che questo accada e per cercare di restituire a queste persone un minimo di dignità. Lo facciamo in rete con altre associazioni, perché ovviamente non ci siamo soltanto noi a Bologna o in Italia occuparci di persone senza dimora, ci sono tante altre associazioni che si occupano di loro sotto altri aspetti. Noi tuteliamo quello che è nelle nostre corde, nella nostra professionalità di avvocati, cioè tuteliamo i diritti. Lei teme che anche chi aiuta i poveri esprimendo solidarietà, come fate voi, possa essere visto in questo clima culturale non di buon occhio? Guardi, non è un problema che ci poniamo, nel senso che a noi è sufficiente sapere che quello che facciamo va nella direzione della tutela delle persone più deboli. Quello che poi ne pensano alcuni dei nostri concittadini, francamente, come posso dire, è un problema loro. Io so che noi abbiamo molti attestati di stima e di solidarietà e di riconoscimento del lavoro che facciamo. Non ultimo, il nostro presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha pubblicamente riconosciuto l'alto valore morale di quello che noi, dell'attività che svolgiamo, e il fatto che porta un valore aggiunto alla categoria dell'avvocatura bolognese. Come avvocati credo che questo sia assolutamente sufficiente per ritenerci sulla strada giusta.